Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Qual è l'ascensore più veloce del mondo? Ecco, in questa puntata di Mebius ve lo diremo, vi diremo anche altre cose. Benvenuti e benvenute nella nostra trasmissione, i titoli adesso e poi incominciamo. È arrivato il momento di chiederci quanto e come siamo intelligenti. È il progetto dell'MIT di Boston e se ne parla al Festival della Scienza di Genova. Perdere la tramontana, assiderare e tanti altri modi di dire che hanno a che vedere con i fenomeni climatici e l'astrofisica. Spieghiamone l'origine. Ha vinto $50,000 da Google. È un ricercatore italiano che studia l'emotività dei testi. Ma che cosa significa che un testo esprime emozioni? L'infinita questione omeopatica. È sempre di attualità e a complicare le cose, adesso, c'è anche internet. Gli ascoltatori ci chiedono, ma i grattacieli non sono degli strepitosi mangia energia? Raggiungo via Skype Tommaso Poggio in un aeroporto. Poggio ha appena lasciato il Festival della Scienza di Genova, dove ha presentato un grande progetto del MIT, Massachusetts Institute of Technology. Buonasera Poggio. Buonasera. Ci dica intanto qual è il centro delle sue ricerche che da tempo svolge lì a Boston. Il centro della mia ricerca è come obiettivo ultimo quello di capire come funziona il cervello e cos'è l'intelligenza e come riprodurla nei computer e nelle macchine. Il progetto del MIT di Boston, del quale lei è uno dei principali promotori, ha dei contorni molto larghi. Quali sono? I contorni larghi scaturano da due considerazioni. Una è che siamo più o meno a 50 anni dall'inizio ufficioso dell'intelligenza artificiale e che negli ultimi 15 anni si sono finalmente raggiunti degli obiettivi, dei successi che credo non siano ancora apprezzati dal pubblico. I successi a cui mi riferisco sono sistemi, computers che sono più intelligenti di noi, più bravi di noi, in vari domini abbastanza specifici, ma chiaramente campo dell'intelligenza, computers che ci battono a scacchi, computers che dimostrano teoremi, computers che ci battono a competizioni tipo Jeopardy, che è una specie di lascia raddoppia che richiede una comprensione piuttosto sofisticata del linguaggio naturale, a sistemi appunto che riconoscono pedoni e altre automobili e fanno vedere le automobili. E questi sistemi stanno cominciando a apparire su macchine tipo la Volvo e nei prossimi due anni appariranno sulla maggior parte delle automobili, dalla BMW alla Audi. Per esempio adesso sta uscendo il nuovo iPhone e ha questo assistant, electronic assistant, che si chiama Siri e che risponde a domande in linguaggio naturale, fa cose come lo potrebbe fare una segretaria. Un'applicazione per esempio di Siri è probabile, sarà un'interfaccia per la televisione. Si potrà semplicemente dire vorrei vedere un film un po' divertente che però finisca bene. Il sistema ce lo farà vedere se c'è in onda in quel momento. Però so che il vostro progetto non vuole indagare soltanto l'intelligenza delle macchine, ma anche la nostra, come noi pensiamo, e anche l'intelligenza collettiva, quella che ci vede affrontare grandi sfide. E per esempio so che appunto lo volete fare anche perché negli ultimi 2-3 anni questa intelligenza collettiva non ha dato gran mostra di sé, no? Se non sbaglio. Esatto, assolutamente. No, questo è effettivamente l'altra considerazione chiave, che è quella proprio che non c'è ancora nessun sistema, e non credo che ci sarà nei prossimi 5-10 anni, che sia intelligente come una persona umana, che possa capire, discutere di tutto con tutti gli aspetti positivi e negativi che uno di noi ha. E questo è importante, diciamo, perché finché non potremo confondere un computer con uno di noi non avremo passato il test ufficiale dell'intelligenza descritto dal matematico Turing negli anni 50, e non avremo capito come funziona il cervello, che è l'altra sfida meno ingegneristica, più scientifica, e c'è anche il problema, diciamo, dell'intelligenza collettiva, come funzionano organizzazioni, gruppi di cervelli e di come poter migliorare l'intelligenza e la capacità decisionale di organizzazioni della nostra società, cosa che, di cui appunto mi sembra che tu stesso dicessi c'è un gran bisogno. Il progetto allora del MIT è cercare di costruire una cornice comune fra tutte queste manifestazioni, diciamo, dell'intelligenza, e provare a trovare un filo comune. Esattamente. Questo è lo scopo. L'assunzione è che per poterlo realizzare ci voglia una grossa interdisciplinarità, ci vogliono esperti in varie discipline. Questo riflette proprio il fatto che il segreto, diciamo, dell'intelligenza umana, il vantaggio rispetto ai sistemi di cui ho parlato prima, è che è un'intelligenza su molti domini. Può giocare a scacchi, forse non bene come il computer, ma può anche discutere di sport, può vedere in modo ancora irraggiungibile per i nostri computer. C'è questa integrazione di così tanti vari aspetti dell'intelligenza, che è quello che distingue la nostra intelligenza, mi sembra appunto quasi una condizione necessaria ad avere esperti in vari campi di computer science e della neuroscienza per cercare di capire come questi vari aspetti possano essere integrati. Grazie Poggio e buon lavoro, un lavoro molto lungo, ma auguri. Grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora siamo arrivati agli ascensori, che sono dentro il nostro quiz. Dunque, la domanda è questa: qual è la velocità massima al mondo degli ascensori? Ce ne sarà uno che è più veloce di tutti gli altri. Naturalmente abbiamo a che fare con grattacieli. Prima possibilità, 16,8 metri al secondo. Per brevità scriveteci 16, oppure 9 metri al secondo, scriverete 9, oppure 20,2 e ci scriverete 20. Dove? Beh, col solito SMS. 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Steve Jobs di Walter Isaacson, edito da Mondadori, e questo libro è offerto da libreriarizzoli.it. Torniamo indietro ad agosto e lo faccio con Fabio Turone, che è qua di fianco a me. Ciao Fabio. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Fabio Turone, giornalista di scienze, in particolare specializzato nell'area delle bioscienze, della biomedicina. Torniamo indietro ad agosto, quando una casa farmaceutica, qui già il problema complesso nella definizione, comunque, che vende prodotti omeopatici, la Boiron, viene investita da un piccolo blogger italiano che scrive qualcosa sul suo blog. Rapidamente, cosa è successo? Sì, è curioso anche questo capovolgimento che hai usato nel dire che è stata investita. In effetti la vicenda è nata quando un piccolo blog che si chiama blogzero.it ha cominciato a scrivere di omeopatia, raccontando un po' quali sono le basi teoriche traballanti, devo dire, dal mio punto di vista, dell'omeopatia, e si è sentita chiamata in causa la Boiron specificamente da un paio di immagini e didascalie satiriche, al punto da mandare a questo blogger una lettera abbastanza minacciosa, in cui, con un linguaggio da avvocato, si intimava di eliminare altrimenti c'era la possibilità di far valere in tribunale i diritti, non solo, fra l'altro, non solo dell'azienda, ma anche degli utilizzatori dell'omeopatia. A questa richiesta, che era stata fra l'altro indirizzata al provider, chiedendo al provider di togliere totalmente accesso al blogger che si chiama Samuele Riva, che è un ingegnere informatico milanese, è seguito da parte di Samuele Riva l'eliminazione delle due immagini. Le vignette satiriche. Che erano in realtà due immagini del prodotto omeopatico Scillococcinum, accompagnate da una didascalia satirica. Lui ha tolto queste immagini e ha denunciato questo fatto. Ora, l'investimento a cui accennavi all'inizio è derivato dal fatto che ha segnalato questo tentativo di intimidazione e rapidamente su internet c'è stata una fortissima sollevazione di tutti quelli che contestavano questo tentativo di censura da parte della... Certo, perché al di là del dibattito omeopatia sì, omeopatia no, non è un buon comportamento questo di non accettare delle critiche che poi in generale vengono fatte per un sacco di altri farmaci e di altri prodotti, insomma è piuttosto normale, insomma, perché aggredire in quel modo, no? Questo è stato il punto. Sì, diciamo la reazione da parte di molti è stata proprio quella di dire c'è una sproporzione netta e in qualche modo è stato portato alla luce un atteggiamento tipico di multinazionali di altri ambiti, laddove fino ad oggi l'immagine che accompagnava e che accompagna ancora il mondo dell'omeopatia e in generale delle medicine naturali è più quello dell'azienda familiare piccolina, che è più portata al dialogo che all'intimidazione, certo, in tribunale. Oh, naturalmente il dibattito sui prodotti omeopatici è un dibattito che si distende negli anni, ci sono sostenitori e denigratori su tutti i fronti, no? Anche moltissima gente che ha una grande sensibilità, per esempio ambientalista, è assolutamente schierata con il fatto che questi farmaci possano funzionare. Altri invece, in linea di massima, il mondo della scienza e della ricerca dice proprio che i conti non tornano. Però a partire da una vicenda come questa è interessante fare una riflessione su alcuni nuovi dati che gettano una luce, insomma, abbastanza utile per comprendere la complessità anche di questo meccanismo. Assolutamente, infatti la contrapposizione tipica che va avanti da molti anni tra chi dice le sperimentazioni cliniche hanno dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che somministrare un prodotto omeopatico non porta al miglioramento di sintomi, diversamente da quanto accade con la somministrazione di un placebo, e altri, anche dichiarandosi scettici, continuano e hanno continuato anche in quest'estate a contrapporsi dicendo qualunque cosa dica la letteratura scientifica, la mia esperienza dice che io ho risultati. Questa cosa per me, per mio cugino, per mia madre ha dato dei risultati. Allora, a me sembra che il nocciolo della questione possa essere spostato rispetto al dire funziona o non funziona, perché oggi si sa, e sono sempre più numerose le ricerche che lo segnalano, anche su riviste scientifiche assolutamente autorevoli, che il placebo in sé, quindi quale che sia il contenuto di questa pillolina, ottiene dei risultati. Il nodo della questione, a mio modo di vedere e a modo di vedere di molti bioeticisti anche, è proprio il fatto di essersi chiesti già da molti anni: è possibile, e se lo è, come è possibile utilizzare un prodotto inerte in sé, che non ha una attività biologica in quanto tale, per ottenere un risultato che è legato più al contesto, più a tanti aspetti che non sono conosciuti, che non sono conosciuti, certo. All'efficacia biologica di quello specifico. Cioè, la tua domanda è: il placebo di fatto, almeno in parte abbastanza significativa, è un farmaco, praticamente, cioè ottiene dei risultati. Fino ad oggi si è dato per scontato che l'effetto biologico del placebo fosse legato all'inganno. Esatto. Ecco, quindi, però appunto c'è questo aspetto, cioè il placebo è, tu hai un gruppo di persone ha una certa malattia, gli do una pillola, chiamiamola vera, nell'altra la pillola è soltanto, l'altro gruppo invece do una pillola che è uno zuccherino e vado a vedere se quelli con la stessa patologia hanno dei risultati. C'è un elemento che si è, in modo semplificato, attribuire alla suggestione, per cui si usa il placebo proprio per dire il fatto stesso di prendermi cura di te ti cura, però io devo sapere qual è l'elemento ripetibile, per cui se ti metto un prodotto in vendita in commercio, devo sapere che è quel prodotto che ti dà il beneficio e non il fatto che te lo stia dando convinto di darti una cura. È arrivata una ricerca che ha scompaginato un po' le carte. Esattamente, negli ultimi anni l'interrogativo è diventato: posso provare io consapevolmente a usare questa cosa senza ingannarti? E pochi mesi fa, per esempio, è stato pubblicato un articolo su una rivista che si chiama Public Library of Science Plus, in cui è stato dimostrato che su una di queste malattie su cui attualmente la medicina può relativamente poco, che è il colon irritabile, la somministrazione dichiarata esplicita di un placebo ottiene degli ottimi risultati. Oh, scusa, questo è un punto non da poco, cioè, risottolineiamolo. Vuol dire che io do a te, che hai il colon irritabile, uno zuccherino e ti dico: guarda che è un placebo, eh? Cioè è una roba che non contiene principi attivi, e tu stai meglio. Esattamente, questo articolo si intitola non a caso placebo senza inganno. Ed sta cominciando, è frutto di un approccio che è molto serio e scrupoloso, perché accanto al clinico, il cui obiettivo è quello di sentirsi dire dal paziente che sta meglio, hanno preso parte a questa ricerca degli psicologi e dei bioeticisti, perché il punto fondamentale oggi è proprio la contrapposizione tra chi clinico dice quale che sia il prodotto che ti sto dando, se tu non torni più da me perché stai meglio, io sono contento, e chi dice: attenzione, prima di incoraggiare a consumare dei prodotti, dobbiamo essere certi che sia quel prodotto che funziona e che ottiene quel risultato. Come situazione al momento, insomma, c'è ancora molto da capire, effettivamente è abbastanza strano, insomma, questo dato, però merita un'investigazione approfondita. Assolutamente, in molti istituti di ricerca nel mondo si sta proprio ponendo con un'attenzione particolare all'etica il dilemma di come sfruttare l'effetto positivo di questo generico placebo in modo tale da eliminare fastidi che in alcuni casi appunto non hanno comunque un'alternativa efficace nella farmacopea ufficiale sperimentata. Che dire, aspettiamo, certo la cosa ha anche una sua affascinazione, siamo veramente strani, no? Perché io ti dico che non ti do niente e tu stai meglio. Potrebbe essere uno scenario affascinante per il futuro. Sì, in effetti la differenza tra il dire non ti do niente e il dire ti sto dando qualcosa. Sì, esatto, perché è la cosa più sottile. Ti sto dando comunque qualcosa. Non sappiamo bene cos'è, però vedi un po' tu e tu migliori. Grazie Fabio. Grazie a voi. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Un testo che appare sul monitor, un software che è in grado di interpretare le componenti emotive di quel testo. Vi racconta tutto ciò Chiara Albicocco. Ha messo a punto e gestisce un software in grado di distinguere e riconoscere le emozioni nei testi sul web, in maniera automatica e senza l'intervento umano. Per aver messo a punto questo sistema di complessi algoritmi che analizzano appunto i testi, ha vinto $50,000 in un premio messo appunto in palio da Google. Intanto complimenti Carlo Strapparava. Buonasera e grazie dei complimenti. Ecco, lei è ricercatore della Fondazione Bruno Kessler di Trento e per la precisione lavora per il laboratorio Human Language Technology, e stasera ci farà capire ovviamente un pochino meglio il significato della sua intuizione, ma anche che cosa significa che un testo è emotivo. Una brevissima introduzione è che in questo campo del natural language processing, cioè del trattamento automatico del linguaggio naturale, già da tempo si cerca e si riesce con buoni risultati a classificare i testi secondo categorie classiche, cioè se un testo parla di medicina, di chimica, di architettura, di politica e così via. Quindi l'idea è di riuscire ad applicare tutto questo tipo di tecniche alla classificazione di un testo secondo il suo carico emotivo, cioè quindi se un testo è particolarmente orientato verso emozioni di gioia, di tristezza, paura e così via. Per rendere più comprensibili agli ascoltatori questi concetti, forse è il caso, lei gentilmente ci ha inviato degli esempi, forse è il caso di farli sentire. Iniziamo con il primo. Forse hai il cancro ai polmoni. Certo è solo una voce, ma potrebbe aver senso. È molto depresso e questo è solo l'inizio. Strapparava, questo è un testo carico di connotazioni un po' paurose, un po' negative, ecco. Certo, è proprio questo. Prima di tutto volevo dire anche le tecniche che stanno dietro queste cose. Sì. Non è che ci sono regoline che dice: ah, trovo questa e questa parola e allora... Diciamo che le metodologie che stanno alla base si fondano sull'analisi di un'enorme quantità di testi, cioè il calcolatore ha dalla sua parte la possibilità di analizzare milioni di testi per trovare correlazioni, similarità e cose di questo tipo. Mm-hmm. Quindi si addestra la macchina con algoritmi di machine learning a riconoscere certe particolari categorie, cioè la macchina in questo caso ha deciso di classificarla come paura. Ecco. Naturalmente anche la macchina non è infallibile. Voi l'addestrate in un certo senso, le fate digerire tantissimi testi, così milioni. Così che si addestra, tra virgolette, no? Sì, diciamo in qualche modo impara a riconoscere correlazioni, similarità che orientano la classificazione di un testo verso una categoria piuttosto che verso un'altra, insomma. E appunto c'è sempre un margine di errore, non è infallibile. Ecco, prima di entrare nel merito delle applicazioni, farei sentire gli altri due esempi che ci hai inviato. Andiamo col primo. Questa è stata la più bella settimana che io possa ricordare. Sono stato così pieno di energia per tutta la settimana. Incredibile. Questo è chiaramente un testo che esprime più gioia, più spensieratezza. Sentiamo l'ultimo degli estratti che ci ha mandato. Una ragazza della mia scuola è stata investita ed è morta qualche giorno fa. È terribile. Soprattutto perché era una scuola di un villaggio molto piccolo e tutti la conoscevano. Certo, questo ha un tono completamente differente. Ora gli esempi ci sono chiari. Straparava, ma qual è, insomma, l'applicazione di questo tipo di analisi, di questo tipo di algoritmi che appunto determinano questa emotività? Cosa ci serve? Le applicazioni sono molteplici. Innanzitutto lo studiare un po' questi aspetti del linguaggio che possono essere carico emotivo. Stiamo studiando anche, per esempio, il carico persuasivo, il potere persuasivo di certi messaggi. Sono delle caratteristiche fondamentali della comunicazione. La comunicazione non è solo trasmettere un contenuto, ma trasmettere anche qualcosa di più. Pensiamo alla pubblicità, pensiamo ai discorsi politici, ai discorsi pubblici che si fanno, insomma. E per questo, diciamo, in più viviamo in un mondo ormai con lo web, con internet, popolato da un'enorme quantità di testi. Quindi tutto ciò che può classificare testi in maniera automatica porta a per esempio un filtraggio, un utile per l'utente. E da qui un po' deriva anche il significato del suo premio, nel senso che lei ha vinto questo prestigioso premio, questo prestigioso borsa di studio che Google conferisce ai giovani ricercatori su temi appunto i più svariati. Ecco, e quindi in un certo senso Google, diciamo, finanzia la sua ricerca perché potrebbe essere utile alla società stessa, probabilmente, per la pubblicità e per tutto quello che ci ha appena detto. Sì, innanzitutto appunto Google ogni anno mette in palio questi premi nei settori più disparati, anche medicina, economia, eccetera. Non solo per giovani ricercatori, infatti io non sono più così giovane. Vabbè. Ma quello che vuole però Google è che questi soldi vengano impiegati per supportare i giovani ricercatori, quindi per borse di dottorato, supportare studenti. E proprio con, diciamo, le finalità, le applicazioni di cui dicevamo prima, cioè probabilmente utile per un'analisi delle pubblicità o per ottimizzare in qualche modo anche certo. I testi. Diciamo che la visione è duplice, sia in fase, può essere utile sia in fase di chi produce questi testi, sapere quali sono caratteristiche di carico affettivo, persuasivo, ma sia anche in fase di protezione. Appunto, siccome siamo così bombardati da testi, l'utente che naviga nello web potrebbe avere utilità nell'aver segnalato, per esempio, campagne particolarmente aggressive o maliziose. Quindi anche un po' per sicurezza, forse? Certo. E le dico solo a titolo di curiosità che nell'ambito del trattamento automatico del linguaggio, un po' tutta la comunità scientifica sta cominciando a muoversi verso questa direzione, nella direzione di analizzare aspetti più sottili del linguaggio. Per esempio c'è un ricercatore israeliano che riesce con buone performance a distinguere se un testo è scritto da un uomo o da una donna. Addirittura? Sì, oppure in Belgio un gruppo riesce a riconoscere con buone prestazioni l'età di chi scrive. Caspita. E tutto questo, diciamo, in che modo? Qual è la tecnologia che ci sta dietro? Lei ci diceva algoritmi, facciamo digerire al computer milioni di testi e poi come si interpretano questi dati? Sì, diciamo che tramite l'addestramento su questi grandi quantità di testi viene, come dire, costruito un classificatore sulla base dell'esperienza, di quello che ha visto, che servirà per classificare testi nuovi mai visti prima. E diciamo, ci sono all'interno ovviamente di questa linea di ricerca ci sono tantissimi algoritmi, alcuni più adatti a certi problemi, altri, però diciamo, per dare l'idea, questa è la tecnica, insomma. È diciamo la vera disposizione grandi corpora di testo che ha cambiato proprio, come dire, le carte in tavola. Certo, il web ovviamente ha fornito tutto il materiale necessario. Sì, infatti prima i testi dove erano? Cioè, prima c'era su qualche computer, su qualche giornale, eccetera, però non c'era così abbondanza. Va bene, allora in bocca al lupo e ci sentiamo quando, insomma, il premio sarà ben stato speso e ci saranno dei risultati da commentare. Grazie. Ok, grazie a voi, buonasera. Barbara Gallavotti, come stai? Federico, guarda, un disastro. Rischio proprio di perdere la tramontana oggi. Vorrei astrarmi, mi sto anche assiderando. Boh, sarà per il meteo. Che disastro. Beh, sento però che c'è un pensiero recondito in questa tua introduzione, eh? Ma no, sto solo dicendo delle parole di cielo, però non le sto cinguettando. Come mai parliamo di ciò? Beh, perché il cinguettio è su Twitter e riguarda la conferenza Piovono parole dal cielo. È in programma al Festival della Scienza di Genova ed è tenuta dall'astronomo Leopoldo Benacchio e da Cristina Rigutto ed è domenica 30 ottobre alle 15:30. Va bene. E allora il nostro ospite è? Leopoldo Benacchio. Eccolo qua. Buonasera Benacchio. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, disastro, desiderare, assiderarsi, che cosa hanno in comune parole? Sono parole che sono come dei piccoli scrigni aprendo i quali si scopre un piccolo tesoro che è il millenario, se non di più, rapporto fra l'uomo e il cielo. Ad esempio astro, sappiamo tutti che vuol dire stella piuttosto che pianeta, piuttosto che fenomeno del cielo, ma disastro, come ha aperto lei questo intervento, significa andare contro, dis, il volere del cielo, perché da sempre lì l'uomo ha messo gli dèi, i presagi, le speranze, ed anche i castighi, perché la nostra esistenza, quella sì, è veramente precaria, e quindi seguire gli astri secondo l'antico legame che abbiamo col cielo è bene. Andare contro gli astri provoca un disastro. E desiderare? Diceva il grande Seneca che le stelle sono così belle, scrive, che se si vedessero da un unico punto sulla Terra sarebbe un'incessante processione a questo punto per poterle vedere. Quando si sta a vedere le stelle si prende freddo, che in latino è sidus, freddo. In qualche regione italiana si dice ancora sido, sia per stella che per freddo intenso. E quindi quando guardiamo alle stelle stiamo al freddo e assideriamo. Quando veniamo tolti da questo stupendo paesaggio naturale che è il cielo con le stelle, che è bene ricordare è metà esatto dell'ambiente in cui viviamo, ebbene vogliamo tornare a vederle, quindi desiderare. E infine, quando dobbiamo prendere una decisione vitale per noi, dobbiamo stare di nuovo cum sidera con le stelle, perché di nuovo nelle stelle c'è il nostro futuro, i presagi che dobbiamo sapere leggere, questo ovviamente secondo gli antichi. Tra l'altro sono tutti verbi di una grandissima importanza, no? Certo. Che hanno dentro queste tracce antiche. Dicevi, Barbara? Beh, mi chiedevo cosa c'entra il meteo. Allora, quando noi parliamo di cielo, dobbiamo pensare alla fatidica notte del 10 dicembre 1610, che è quella in cui Galileo alza per la prima volta il cannocchiale verso Giove e vede i satelliti. È lì che nasce l'universo. Prima il cielo, da Pitagora, Anassimandro, Aristotele e tutti i grandi della scienza, della matematica, dell'astronomia, eccetera, dovevano capire com'era fatto esattamente con gli occhi, come noi possiamo fare andando in aperta campagna oggi, perché le luci della città il cielo ce lo rubano, diciamo, un po'. anche se ci danno una vita confortevole. Allora, se noi guardiamo dalla Terra in alto, non c'è soluzione di continuità fra quello che sta sopra di noi. Il cielo sembra cominciare sopra la punta degli alberi o sopra la punta dei monti, se siamo in montagna. Poi ci sono le nuvole, poi le stelle, e quindi ecco che grandissimi uomini come Aristotele hanno diviso il cielo in tanti cieli, non distinguendo fra fenomeni meteorologici e fenomeni, diciamo così, che oggi sappiamo essere il cosmo. Buonasera Benacchio, ciao Barbara. Allora buonasera Benacchio, ciao Federico, buonasera a tutti. Buonasera a voi e grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E in conclusione, Chiara, andiamo verso l'alto perché finalmente trattiamo questa vicenda. Sì, grattiamo il cielo. Grattiamo il cielo. Grazie ad una domanda che ci arriva come al solito dai nostri ascoltatori. Anzi, approfittatene, continuate a scriverci a mebius@radio24.it perché questa rubrica piace e lo sappiamo, ci arrivano molti riscontri. Ecco, allora sentiamo la domanda di questa settimana. Arriva dalla Cina un ascoltatore che ci ascolta in podcast, Maurizio. Se vi capiterà di entrare in un grattacielo con più di 80 piani, si noterà che la maggior parte della superficie è occupata da ascensori e vani di servizio. E allora vi chiedo, al di là dei significati di immagine, esiste veramente una convenienza economica per edifici così alti? Quanti kilowattora ci vogliono a portare su e giù in ascensore migliaia di persone per un totale di svariati chilometri ogni giorno? Maurizio. Ecco. Beh, i quesiti ci stanno tutti. Sì, le domande sono lecite, come al solito. E questa volta forse ci siamo voluti superare perché l'esperto questa volta è veramente un maxi esperto. Allora è Paolo Caputo, che è architetto e che ha progettato il Palazzo Lombardia qui a Milano, che attualmente è il palazzo più alto d'Italia. Buonasera Caputo. Buonasera a voi. Sulla bagarre del quale più alto ci arriviamo alla fine, perché qualcosa bisognerà dire. Comunque lei adesso la domanda l'ha sentita. Insomma, questi grattacieli sono, come dire, una specie di concentrato di sprechi? Beh, per come è posta la domanda porterebbe a questa conclusione. In realtà le cose sono, come sempre, un po' più complesse e articolate di quanto non siano poste nei termini in cui si è espresso il vostro ascoltatore Maurizio. Il tema del rapporto tra spazi serviti e spazi a servizio, come è posto, è un tema corretto, però evidentemente ci sono tutta una serie di equilibri nella costruzione di un edificio, nel concepimento dello spazio di un edificio, per cui in rapporto all'altezza, in rapporto quindi alla distanza dal suolo, ai temi della sicurezza, al numero di scale che occorrono per mettere in sicurezza l'edificio, eccetera, eccetera, eccetera, si tende sempre a perequare il rapporto tra spazi serviti e spazi a servizio, quindi tra quelli destinati agli impianti tecnici e agli impianti di risalita e quelli destinati alle funzioni che la torre ospita. Ecco, ma dal punto di vista energetico è vero che sono così energivori, cioè che divorano così tanta energia, o comunque ci sono delle modalità per cui si compensano in qualche modo gli sprechi e poi i guadagni? Beh, da una parte in effetti c'è una concentrazione di uso di energia, d'altra parte è anche il tema del rapporto col suolo, quanto suolo si consuma con un edificio a torre, quanto suolo non si consuma con degli edifici bassi. Quindi l'energia o la si concentra nel consumo o la si diffonde nel consumo. A parità di volumetria, magari tanti edifici bassi consumano più energia di un edificio alto e concentrato. Ah, quindi se devo portare su al 161esimo piano di un edificio un ascensore non mi costa in termini energetici di più? Ciascun edificio evidentemente ha un suo bilancio, sì, da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista energetico, per cui l'ultima generazione di grattacieli di edifici a torre è molto più virtuosa, si sono affinate le tecnologie, c'è anche una maggiore consapevolezza e coscienza diffusa non soltanto tra gli esperti ma tra l'opinione pubblica, per cui alcuni must in termini di sostenibilità e di contenimento del consumo energetico sono oramai passati e sono su tutti i tavoli di progettazione. Le facciate di un edificio alto possono essere attive dal punto di vista del rapporto con l'esterno, non soltanto possono essere tutte superfici captanti la luce naturale e quindi l'irraggiamento solare, per cui diventano produttrici di energie. Delle enormi superfici di pannelli solari, che pannelli prima non c'era questa cosa. Parte, certo. Il tema per esempio di portare in altezza un numero enorme di persone è attentamente valutato in termini di efficienza. Ci sono direzioni, diciamo, nei grandi studi di ingegneria che si interessano di flussi. Di flussi si interessano coloro che per esempio progettano stazioni, grandi impianti pubblici, parcheggi, ma anche noi per esempio ci siamo avvalsi di colleghi londinesi esperti in studio e in ottimizzazione dei flussi in edifici alti. Ci hanno affiancato e hanno ottimizzato le modalità attraverso cui dovevano essere strutturati, impiantati e far funzionare gli ascensori. Quello che lei dice è che il grattacielo è, come dire, un evento abbastanza complesso e complicato, però se andiamo a fare i conti tra le cose che fa un grattacielo in altezza e le cose che farebbe la stessa superficie ma in larghezza, se siamo bravi, quello che viene fuori è che c'è un vantaggio col grattacielo, fatti tutti i conti, tutte le differenze. È questo che lei dice? Non sono verità assolute anche da questo punto di vista, perché il grattacielo può essere fatto se lo facciamo bene, ci può essere una questione relativa agli investimenti, cioè una facciata attiva può costare 400 euro, ma può costare anche 4.000 euro. Si tratta di capire dove sta l'equilibrio della specifica operazione. Dopo l'11 settembre negli Stati Uniti sono entrati in vigore delle norme di sicurezza, per cui certo. A downtown, a ground zero, in questo momento gli edifici che stanno sorgendo hanno dei vetri che sono spessi quanto quelli degli acquari, quindi a prova d'urto d'aereo. E evidentemente questo è un altro problema, però lì c'è una scelta. Però va commisurato evidentemente anche ai valori immobiliari del luogo e quindi alla convenienza di costruire lì in termini certo. Densi e in altezza. Ecco, in conclusione, allora veniamo un po' alla bagarre, come hai detto tu, Federico, ma in realtà è una, insomma, da disquisizione simpatica, via, su qual è il palazzo più alto d'Italia. Dobbiamo ricordarlo, allora, però, qual è il problema? Perché sì, mica lo certo. Sanno tutti. Di fianco, poco lontano a da pochi questo, metri da quello che ha costruito lei, Caputo, c'è un edificio che è come piani più basso, però hanno fatto un pennone che non finisce più a vortice, e loro spirale. Dicono questo qui è il più alto. Invece no, Caputo. Noi siamo per i piani, perché non vale. Lei fa un pennone di 50 metri e frega tutti. Lei immagino che sarà d'accordo. Ma tendenzialmente sì, io sono dell'idea che un edificio, quindi è qualcosa che deve essere utilizzato, non è altrimenti c'è una gara tra guglie. In ogni caso si tratta di mettersi d'accordo, poi queste contrapposizioni sono forse più a beneficio della stampa e così della curiosità collettiva che non fondate su problemi. Potremmo dire così, l'edificio più alto abitabile. Ecco. Okay. Abitato, ecco, sì. Abitato. Va bene, grazie architetto, in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Arrivederci. Ci siamo, Chiara, gli ascensori, qual è il più veloce? Ecco, infatti a proposito di grattacieli, il più veloce è quello della Taipei 101 a Taiwan, che va a 16,8 metri al secondo, vale a dire quasi 60 km orari, insomma, è il più veloce, ma sta per essere superato dalla Shanghai Tower, che in costruzione sarà attiva nel 2014 e l'ascensore andrà ben 18 metri al secondo. Oh, wait, senti Alberto, sono qui con Alberto Agliotti, della redazione di Mebius. Voglio dire, in televisione è pieno di questi telefilm, trasmissioni anche, non solo telefilm, dove parlano insomma di omicidi e noi non ne parliamo mai. parliamone una volta. È il momento, dici? È il momento. Sì. È il momento. E per farlo abbiamo al telefono uno specialista, ma non di omicidi. No, certo. Ma di medicina legale. Biagio Solarino, appunto medico legale dell'Università di Bari. Buonasera. Buonasera. Buonasera Solarino. Allora, vogliamo, Alberto, entrare nel merito della sua ricerca. La facciamo definire a lui? Facciamola definire a lui, sì. Cos'è che lei ha scoperto di particolare? È uno studio che noi abbiamo fatto sulla cellularità nasale post-mortem, che a nostro avviso può essere estremamente utile nel definire l'epoca della morte, che è da sempre una delle grandi sfide del medico legale, perché chiaramente ha un'utilità nelle investigazioni di soprattutto di omicidi fondamentale, nella misura in cui si colloca una persona, l'eventuale autore del reato, sulla scena del crimine in un determinato ora. Certo. E quindi normalmente come si fa per capire qual è l'ora della morte? Dunque, normalmente il metodo più utilizzato è quello che utilizza la temperatura cadaverica, ed in particolare si utilizza la temperatura rettale, e attraverso un omogramma inventato da un tedesco che si chiama Esge si ha una stima più o meno ampia dell'epoca della morte del soggetto. Più o meno ampia, ma quanto ampia? Perché poi si sente dire con una precisione... Nei telefilm diciamo alle 9.30, dalle 9.30 alle 10.15. Esatto, esatto. Beh, in spregio a tutto ciò che si dice nei telefilm e soprattutto ultimamente anche nelle varie TV, l'epoca della morte è una cosa, è un qualche cosa di estremamente serio e molto complesso da valutare. L'epoca è più o meno ampia a seconda chiaramente del momento in cui viene valutata la temperatura cadaverica, e poi è influenzata da una serie di fattori intrinseci ed estrinseci, quindi dall'ambiente ma anche di patologie eventualmente o di stati preesistenti della vittima. E invece il metodo che suggerisce lei attraverso le cellule del naso non risente di questi effetti l'abbiamo già introdotto. Allora, le cellule del naso? Sì, le cellule del naso, praticamente che cosa succede? Noi facendo un semplice, perché di fatto è così, raschiamento della mucosa del turbinato inferiore, che è la parete laterale del naso, riusciamo a ottenere una quantità di tessuto ciliare, successivamente la analizziamo, la osserviamo a un microscopio a contrasto di fase e vediamo la motilità di queste cellule. Dalla motilità di queste cellule, secondo il nostro studio, siamo in grado di avere una stima dell'epoca della morte del soggetto. Quindi diciamo che è uno studio che può essere utile unitamente alla valutazione della temperatura cadaverica, sempre nel definire l'intervallo di morte. Ma mentre ci sono tante condizioni ambientali che possono alterare il prelievo della temperatura, il vostro sistema, invece il suo sistema, è meno sensibile a queste variabili. Assolutamente, chiaramente è uno studio assolutamente nuovo, quindi chiaramente abbiamo bisogno di un campione più ampio, però ecco, in linea generale dipende dalle riserve energetiche di ciascun organismo, che chiaramente è molto più semplice da valutare perché appunto non è influenzato da fattori esterni ed interni, a differenza ecco della temperatura cadaverica, che rimane sempre il metodo principale, però ecco il nostro metodo può essere utile unitamente a quest'altro tipo di studio, di questo tipo di analisi. Ed è una cosa assolutamente nuova. Assolutamente, sì. Nessuno diciamo l'ha mai proposto a livello internazionale. Noi abbiamo portato i primi studi al congresso americano di Chicago e l'ho riproposto in una recente sessione da me presieduta a un congresso di Francoforte di una società mondiale di medicina legale. Quindi ha avuto diciamo un notevole successo, anche perché nessuno aveva mai visto delle cellule muoversi molte ore dopo la morte. Qui io e Alberto ci stiamo guardando in faccia, ci ha un po' creato una delusione, perché tutti questi telefilm che vediamo, un sacco di frottola. Ci toglie così il gusto. Poi adesso abbiamo proprio dei telefilm sul medico legale, che ha tutto un insieme di precisioni estreme, tutte frottole. Diciamo che le precisioni sono sempre condizionate dall'euroscienza, dal fatto che comunque la medicina o la biologia, meglio, o la chimica sono scienze comunque incomplete fondamentalmente, quindi dare, come dite voi giustamente, un range così stretto, ancorché possa essere utile, è poco scientifico, ecco, dal mio punto di vista, o dal punto di vista di chi studia da tanti anni questo tipo di fenomeni cadaverici. Insomma, noi pensavamo che il naso fosse importante perché è legato al fiuto dell'investigatore, invece... No. assolutamente. Dal naso, ecco, siamo riusciti anche noi effettivamente ad identificare qualcosa oltre il fiuto, magari, ecco. Biagio Solarino, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Alberto, abbiamo finito qui la puntata, in questo modo, insomma. È finita così. Tra omicidi e delusioni. Grazie, ci sentiamo fra 7 giorni qui a Mebius.